300 la scatola, nuovo nuovo, 150 euro, non so se sia un buon prezzo, ditemelo voi. Ah boh, non lo so, quanto vale le 300 non lo so, non le uso lineari, ne ho uno piccolino piccolino ma non lo uso mai. Ah, e cosa ne fai il 300? L'ho dato a Franco California, io cosa ne fai? Io quello grosso. Tu ce l'hai grosso? Sì, grosso, come l'asino, poco buon fai. Ah, Fernando, ha rotto un gazza. 2 euro. No, io ho l'acco 1000 HF, l'ho pagato 800 euro. Dopo, hai visto, non ho giocato per HF, non puoi usare il 27, io l'ho attaccato per fare delle prove, ma no, non mi interessa usarlo il 27, usami la Futti. Se poi fate la bravi, lo lascio spento, se fate la Moelli, vi schicchio, vi brucio le labbra a tutti. Aio, aio, aio, aio, aio, aio. Provo Kennedy, bomboli. Io, io, io, io, io, io. Dove siete, Carlo? Dove siete arrivati? A Via Lotto. Poi quando arrivo a casa la fai con me la prova. A vedere dove vai. Sono Franco, è Natalino, ti sento. 9.35 questo passaggio qua. Eia. Bombolino, poi la fai con me la prova se ti sentono gli altri. Sono Natalino, ti può ascoltare. Va bene, dai, che noi abbiamo le pizze ordinate, dobbiamo scendere a ritirarle, sennò se no te lo mangiamo. Che cazzo mi ha dato un appuntamento, questo, alle 7:30, devi dirci devo mangiare alle 7:30, adesso bisogna metterle tutte al forno e scaldarle. Ah, e se no è alle 9, va bene, dai, ci sentiamo a dopo, ragazzi, ma Franco di Sosso mi accoppi? Cazzo che ti accoppio, ciao! Ciao Claudio, sento che sei in macchina. Eia, sono con Franco, vai, con Franco Binario in macchina. Stiamo andando a ritirare pizze. Già ti accoppio, vai. Ci sentiamo dopo, Robert, riprendi tu e fai girare. Eia, non passare sotto casa, se no mi bruci lo Smith. Volevo dire, ma Gianfranco, ho sentito la vetta? Mi pare di sì, l'ho sentito oggi di sfuggita stasera. Eravamo io, lui e Natalino. Poi stavo chiedendo un microfono a Natalino che le mancava il microfono della radio nuova, della, e gliel'ho dato, l'ho portato adesso. Eia, ok, a chi spetta? Doppio rumo a te. Eia, dai. Claudio, arrega le nocche di pizza. Non penso. Affaro. Va bene, dai, con la pizza di mi accoppa a me un attimo, scusate. Papà. Gianni. Eia. L'ho sistemato questo microfono, va bene adesso. Eia. Sicuramente ci vuole solo lo spray. Gli ho spruzzato un po' di quello spray per contatti elettrici, ho visto che va bene. Io ne ho messo anche CDC, va bene. E vabbè, io già avevo quello già. E praticamente gli ho spruzzato quello lì. Fatto quel fra. Fra, chiamami un secondo, o ti chiamo io. E fammi una bassa. Gappa gappa. La Parigi c'è ancora. Un po'. Tutti spariti. Lello! Qui, e beh! Cosa stai combinando? Sì, nulla! Stavo risistemando la pizza nel fornetto per farla scongelare un pochettino, poi devo fare la cena a Simona. Ecco, andrà bene, andrà bene. Niente, è tutto andato via su. Ma io già ci sono ancora un po', pensavo che erano stati via. Allora, via tu. Gappa, gappa. Allora, già ci sono. Gappa. Gappa, gappa, già va bene. Ui, ui, ui. Cos'è che ti fa male? Non ti fa male, a tu? Gappa, dai. Avanti un gabè, muiccio. E metto per una... Perché mentre parli ti abbassi? Sentito l'hai, Antone? No, stavo uscendo bene e poi è uscito un salto tutto, non ho capito cosa è successo, dice, quell'apparecchio lì e ne metto l'altro, detto. Gappa, no. Beh, non funziona quell'apparato, manca la modulazione, manca tutto, e cosa ci avrà? Boh, non so. Oh, yeah. Guarda, tutto. vediamo un po'. Sono curioso. Vabbè. Uno e due. 10 watt. Allora, vediamo un po'. 100. A 40. Che sta girando le palle, quella nera. Ah, non è niente, non è niente, è uno spinotto che mi stava rompendo le scatole dietro il coso. Quanto invece va bene ora? Sì, adesso va bene, infatti mentre parlavi si abbassava lo smitter e modulazione e tutto. Già messo, mi accorto che mi si è abbassata la potenza. Capo, va bene adesso. Gappa. Ettore! Dimmi tutto, sono qua. Sei rientrato Antonio? Sì, ho sentito Antonio a Puglia. Quindi stasera vai di là, Anto, a ascoltare la musica alle 8. Ehi, no, stavo rispondendo a Sara, cosa hai detto? Ho detto alle 8 vai di là a ascoltarti la musica, ho detto. Ascoltarmela, accanto a Mira. Che ieri c'è stato un piccolo problema da un'altra parte e non ho cantato nulla. Vabbè, là. Ah, quindi vai a cantare stasera dopo le 8. Appa, alle 9 dopo iniziare il karaoke. Sì, ok. Adesso non lo so, forse devo uscire con Giovanna, ma non so dove dobbiamo andare. E lì, adesso vediamo un po' cosa decide con i bambini stasera. Se andare già dove è andata l'altra volta, lì da Giovanni Pascoli oppure da qualche altra parte di Accanica, cosa adesso? La cosa, in via Bogina, e viene da Costantino questa notte. Il problema è Salino era lì, hai capito? Se non sarei sceso, avrei cenato e sarei sceso per al limite, capito? Ma l'ultimo tranno non sai che era il 10-4. Il problema è quello, se non sarei sceso anche adesso. Il casino è il tram, è stato con mezzo mio, tanto quarto, ma sono a piedi in pratica. Se non sarei rimasto fino alle 10, alle 11 di sera, mezzanotte. Capa, se vieni, non c'è problema, Ecco qua, l'ho messo a posto. Capa. Mi sta dando un po' di fretta il coso, mi sta dando, come si dice? Lo spinotto sta dando un pochettino di fretta, neanche lo controlli. Ma qua fuori là mi ha dato di fretta. Controllatelo un po', magari è una fesseria. Adesso vediamo, dai. Se Giovanna va via Bugina, tanto già di vicino faccio il ponte nuovo. Mi penso a piedi e poi mi faccio raccattare al ritorno, al limite, quando poi lo vanno via da via Bugino, faccio venire a prendere. Adesso vediamo un po', dai. Io lo chiedo a Giovanna quando rientra. Ok, capa. Avete un po', se no venite tutti insieme, non c'è problema. Capa, il capitano vuole andare, da. Adesso guardi se ti andavi. E là lì, va lì, perché c'è l'amica sua, la comare che fa l'abbandante a mio fratello, capito? L'altra volta sono andato insieme a lei, sono entrato alle 5 di Manzano, figurati. Eravamo io, Giovanna, mio cognato e il bambino, quindi figurati. Siamo entrati alle 5 del mattino, siamo entrati. Magari gli sa polacca, lo sai. Ah, è sassarese che ha fatto polacca, la mandante. Non li ho parlati polacchi io, no. Aveva voluto a farmi sequestrare di là. Già hai di sassare, già hai di sassare il figlio, non ti preoccupare. Non è polacca. Oh, yeah. Avanti, Franco. così quando volate si dice, cosa ne fai? Oh, e ha detto, volate, dove cazzo sarà chi dà? Siccome c'era anche una straniera, c'è. Cogio. Ha detto, c'erano di chi si no? Perché il badante di solito fanno sempre straniere. Poi la femmina ha virato, ragazzo, me ne porto di chi si. No, lo stavo dicendo a te, non a tu. Sto dicendo a Antonello, sempre se che ne bolacchi. Poi Antonello non le piace né di femmina, non le piace di chi si fa nella terza gamba. Guarda che è meglio della diritto di cittadinanza, mi hai capito? È che l'avrei mandato a battere, ogni sera avrei tirato di là, tutti in nero, in contanti. Tanto che cartina, Giulio, sei attivato il mezzo, vieni tu. Tutto è cuscimignato, noi torno a casa, ma... No, credo proprio no. A me il culo mio è sacro, capito? C'è la maschera di ferro, c'è. Vabbè. Ma tu vuoi buoni a chi tu vuoi bene? No, detto. E polacca a casa non ne ho. L'unica bandata che c'è è di Sassari, ho detto. Poi se dovesse essere una polacca oppure un trasverter, come lo vuoi chiamare tu, avrei messo a battere e mi avrebbe dato i soldi in contanti, mi avrebbe dato almeno. Di certo non me l'avrei fatto io, questo è poco ma sicuro. A tu, chissà cosa mi fatto di sempre invece della stazione, un ghibli, ci rendi la sera a Dario. Facciamo un momento che cambiate la pizzetta. No, mi travesto io, già sono brutto di così, guai, se mi metto la parrucca, lui, se ne fuggono, cazzo, mi danno l'assegno, se ne fuggono. Prendi la torta. Capa, ui, e beh, vabbè, che è mau, ma, mamma mia, vivo coraggio, vivo. Secondo che tu guai, si è fregato davvero. Controlla la prima mia alla Rusi, a chi si acciappi a Rubuti, a ciappa un bianco, a ciappa un niente, so cavoli. Vieni amore, che ti spacco una, tutti ti spacco, vieni. Ora mai è finita quella era mia, non lo sa, non l'ho visto, via la cosa vita di Manuele, eccetera, via la bambola, tutto serrato, oramai è tutta roba dei nigeriani, capito? Adesso è un casino, adesso ti fanno il culo loro se vai per dire, vai a cercare qualche donna lì, se non sbussi subito i soldi, ti lasciano secco in terra lì, ti lasciano adesso. Ormai è cambiato tutto, prima c'erano senegalesi, tutto, spagnole, brasiliane, eccetera, eccetera, ma adesso oramai è tutta roba nigeriana, quella zona lì purtroppo. Già lo so, Giantone. Io ti lascio, che adesso mo con i pantaloni. Ci sentiamo, dai! Non so quanto tu così mamma. Cazzo ogni viago, ogni addanto. Mamma mia, ogni asciugamo che vivo. Parola. Giantone, ciao Prada, sorso, ciao. Ciao Antone, ci sentiamo. Ciao anche a te Antone, ci sentiamo. Mi raccomando Antone, quando vai in quelle zone, mutande di acciaio. Già sono tranquillo quando vado in quelle zone io. Una volta c'era uno che... Vabbè che poi l'ha ammazzato, poveraccio. Ma se ci fosse stato quello lì, sei tranquillo, più di uno sarebbe stato spanzato. Oppure rimasto a terra perché faceva il pugile quello. Poi l'hanno spostato a lui, poveraccio. Perché era sempre in affaratura, stavo circolando all'altro, andava al mare, eccetera, eccetera. Allora era diverso le cose, c'è il coprifuoco, c'è in quella zona lì, non ci puoi stare. Se stanno fuggendo tutti, stanno vendendo tutti la casa, per quel motivo mi ha... Se la vuoi per dire 30, 40 mila euro nemmeno, 20 mila euro, tanto di prendersela, voglio di farla fuori. Perché oramai è diventato un casino, quando hanno messo questi nigeriani, è tutta zona loro. Bisogna stare anche attenti, perché secondo me deve pigliare il portafoglio, ti picca, ti lascia pure in terra. Ecco, bene, andrà bene, va, sentiamo anche a me. Ehi, ok, ciao Fra, ci sentiamo, ciao Antonio, lo stesso, boh. Ci sentiamo a domani. Kappa, ciao, ciao, ciao a tu. Hola, c'è qualcuno qua? Attenzione, 10, hola, c'è qualcuno qua? Hola, attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, c'è qualcuno in ascolto sul canale 10? Avanti, che è successo? Andata lì. Cappa, stavo provando il microfono palmare che mi ho saldato tre fili qua, a vedere come stava andando. Ottimo. Non so se c'è roba accesa lì, se c'è rumore, però si sente solo la tua voce. Sì, sì, non c'è niente acceso, dai. L'importante è che vada bene questo microfono, dai. Sì, per me va molto bene, più che comprensibile. Sì, quella normale, dai. Ma la radio è forte comunque, non è devoluccia. Guarda adesso che c'ho il macchina a metà. Beh, adesso giustamente è più bassa, era meglio prima. Ecco, sono contento, sono riuscito a metterlo a posto. Da. La capsula di quella Electra, no, quelle piccoline piccoline. Sì signore. Beh, ok, allora va bene. Ok Natalia, io sto facendo ascolto, quindi ti lascio le tue cose e se c'è bisogno, per ancora una mezz'oretta, sono qua. Il campa. No problem. A cosa serviva quella chiavetta che stavate piazzando a Roberto, interrogativo? Che forse me la piazzo pure io, ma non so se va bene il mio computer. No, allora, specifichiamo, quella che abbiamo piazzato ieri al primo colpo non è una chiavetta, è un adattatore da USB a seriale che serve per gestire l'apparecchio HLU HF, perché l'HF c'è una seriale, quindi l'ha collegata e adesso sullo schermo del computer deve fare la radio, con tutti i suoi comandi, tutti i suoi gingilli, trick e track, ed è contento, perché almeno vedere cose in grande ora, no? Anche se la sostanza rimane la stessa. Se mi parli di chiavette, a cui sto lavorando in questo momento, ci sono delle chiavette, quelle economiche, le RTL, per essere chiari, che a volte con Windows 10 a 64 bit danno dei problemi. Problemi perché il drive carica male, problemi perché le chiavette così economiche sono esageratamente interferibili dalle radio broadcasting, quindi da quelle su 8808 che le massacrano. È tutto lì. Quindi quelle economiche manca a parlarne. Tutto dipende da quanto ti arrivano a te, a me mi arrivano 8940, cioè un euro. Quindi per me, infatti una gli ho tirata in testa, ho detto guarda, se mi vuoi fare un grande piacere, a Roberto ho detto non me la fare più vedere. Punto. Perché non ne voglio più vedere, adesso ne sto provando una, che non è esattamente una chiavetta, un ricevitore che ho comprato per collaudarle, un SDR Plus, no, un SDR Play, l'ultimo modello dovrebbe essere, che insomma riceve anche il DAB che è la radio, nuova radio digitale, che stanno mettendo sulle macchine, anche se l'unico trasmettitore a Monte Alvaro per adesso. E in più questo qua riceve ovviamente le HF fino a 2 GHz. Prego. Un attimo, registrato. Ehi, perché mi interesserebbe avere un qualcosa del genere, da. Dipende da quanto costa quel ricevitore. Sì, adesso faccio entrare il break. Questo costa caruccio, costa siamo dell'ordine delle 220-230, una cosa del genere. Avanti il break, buonasera, Gianfranco in compagnia di Natalino. Ciao Gianfranco e ciao Natalino. State parlando di chiavette? È riuscito, sta scappando, è riuscito la chiave grande. Allora, vuoi sapere una cosa, Gianfranco? Mi stavo divertendo con quel programma SDR del Sharp e tutto quanto, e ho attaccato il DAB. Ma dimmi, a proposito, prima di parlare di altro, ma sto uscendo di segnale io? Cavolo, perché non devi uscire? Sembra che sia più basso. Ora? È uguale a ieri il segnale, Gianfranco. A me pare di sì, questo smitter poi non è che sia un vero smitter, quindi prendi la con tutte con le pinze, quindi di quelle digitali, quindi può essere più, può essere meno, ma non te ne accorgi. Perché ho fatto un po' di lavori nella stazione, ho spostato un po' di roba, non vorrei che avessi toccato anche il livello della potenza. Aspetta, scusate un attimo, l'importante quanto è? Lasciamolo così il solito, no, forse era un po' più basso del normale. Stavo uscendo con un boom 2 watt. Allora, sarà da quello, dai. E niente, stavo dicendo a Natalino che riguardo a quelle chiavette lì, e tu glielo potrai confermare, non sono certo affidabili per fare un ascolto serio. Io ho queste qua, ad esempio, le sto controllando per il trasferimento anche del sistema digitale tramite delle porte virtuali, eccetera, però non è che ne sia proprio entusiasta rispetto perlomeno al ricevitore, che le fanno pelo e contropelo, barba e capelli, e chi più ne ha più ne metta, capito? Perché non è sufficiente per un ascolto normale, cioè serio, ascolti chiari così, una volta sì, una volta no, deve ascoltare quello che c'è, punto e basta, in maniera decente. Queste sembrano un po' così. Riprendi Natalia. Vabbè, sto parlando col microfono normale che me l'ho sistemato. No, già ti sento, c'è un po' un asino, comunque la radio è chiara. Sì, vabbè, il microfono normale è questo, da. Adesso gli attacco l'altro, tanto per avvercelo. Gianfra, ho provato, siccome ho passato tutti i cavetti bene, ho tolto un po' di roba che non mi serviva dalla stazione, ho eliminato un po' di roba, ho messo solo le cose indispensabili, ho passato meglio i fili del computer, i cavi, eccetera. Sono andato a provare il DAB e mi scrive dispositivo non riconosciuto. Oh, perbacco. Cosa hai combinato di bello? Qualche USB che non è collegata? Oh, che cosa? Boh. Ma scusa, non sfrutta la chiavetta quello lì, perché la chiavetta funziona, ho fatto tutte le prove, funziona tutto. Però poi mi vado sul DAB, c'è l'elenco di tutti i canali e invece in rosso, dispositivo non rilevato o non riconosciuto. Staccalo e riattaccalo. E dopo faccio la prova. E poi un'altra cosa, l'hai provato tu? Io non ci sono riuscito da qua, non ho le antenne, a 207 kHz, a provare a ascoltare quella radio che trasmette con un kilowatt da Padova per commemorazione dei 160 anni del primo collegamento di Marconi. Hai provato? Ci riesci ad arrivare tu? Beh sì, io ascolto l'orologio mondiale che ha 70, a 57 kHz, quindi arrivo fino a 10 kHz. Quindi cioè, mi ha detto, aspetta che devo guardare anche dove sono collegato prima, sì sono in HF, che cos'era, che frequenza, 200? 207 kHz, credo che sia in USB, però non sono sicuro, prova anche in AM. A oggi sta trasmettendo a quest'ora, sì. Sì, tutta la settimana, 24 ore su 24, da oggi parte. La trasmette musica, chiacchierata, CV? No, trasmette il discorso del primo collegamento di Marconi, hanno registrato il collegamento di Marconi, non so cosa dicesse quando ha fatto Terranova, quel collegamento transoceanico. Ci sto provando, ma mi pare di non sentire niente, 207 kHz, sicuro mi sei? Sì, è molto giù. Ci sei Natalia? Sì che ci sono. Ha cambiato radio, il microfono? Quello era quello normale, me l'ho sistemato, per vedere se andava. Oh no, già va bene, però questa è un'altra musica, Natale. Sì, vabbè, questo è rock and roll e l'altro è... è la tarantella. Sì, vediamo se Gianfranco è riuscito a sentire alcune. No, sto provando un po', sto girando. Ma è piena di disturbi questa banda, quindi non è che sia così. Vediamo un po'. Radio Mongolin, magari. Ma cosa lo stai ascoltando? Con la cosa, con il ricevitore digitale o con cosa? Con l'SDR adesso, ma al momento ho anche altri mezzi, gli apparati, provo con l'altro apparato, vediamo un po', ma poco ci credo. C'è da dire che non ha una grande potenza, però vedi la trazione, l'hanno fatta adesso solo per questo, un radioamatore, presidente dell'Associazione Radioamatori Nazionale, o non so cosa sia, di Pada Pada, ma trasmette, c'è una bella antenna, un bel traliccio, sicuramente sarà anche disturbata dalle broadcasting mondiali. Era quindi era 207 kHz così. Confermo, 207. Io ne sento una più su, non so se era spagnola o forse francese, a 400 kHz, 450, ma 207 tutto muto da me, vabbè, ho la Mantova, non ho un'antenna dedicata. Però c'è una stazione monitor su internet che la ripete. Dai, comunque il discorso di queste chiavette, questo ricevitore digitale, se fai un giro di conti è meglio spendere 200 euro lì che fai tutto, ricevi tutto, c'hanno un sacco di filtri, perché ad avere quelle prestazioni deve avere un ricevitore da paura, con quello con 200 euro, massimo 250 euro, fai tutto quello che vuoi, ricevi tutto quello che vuoi. Più o meno, se c'è l'antenna. Naturalmente devo pure l'antenna prima di tutto, però paragonato a un ricevitore discreto devi spendere un bel di soldi per avere quelle prestazioni. E infatti adesso comincia a farmi 30-40 di coli. È una quarantina già basta, no dai. Se ne metti uno attaccato al mercato il braccio e l'altro te lo metti in coso in Piazza d'Italia. Ehi, devo mettere una long wire attaccata da qui al mercato. L'attacco al ponteggio lì che c'è al mercato. È un braccio con la fontana del Rosello, che così ti fai anche gli Stati Uniti. Beh, per forza, la massa ci deve essere, quindi uno l'attacco alla fontana del Rosello. E l'altra giù a Coso, a Porta Sant'Antonio, all'antenna dove c'è la Coso della Croce, di lì, un bel braccio lungo e così ti fai anche l'Oceania. Sì, ne vorrei approfittare per mandarti. Posso mandare? Non so. A chi stai dicendo? No, quello che sta ascoltando, che è molto più sotto. Però non lo so se... com'era? Ce lo ricordi tu? Oh, già venne so poche comunicazioni, ce ne sono talmente tante oramai che neanche io non le ricordo tutte. Ho capito cosa vuoi sapere, la frequenza, non ho capito Gianfranco. C'è da dire che noi siamo molto lontani da Padova, un kilowatt non credo che riesca ad arrivare qua da noi in Sardegna. No, non è un problema che non riesce ad arrivare, è un problema che c'è gente che ha 500 volte quella potenza. Sì, però a me mi dà tutto muto a quelle bande, in quella banda ce n'è uno più su francese, che ci avrà 500.000 watt perché è arrivata talmente forte, perché la frequenza originaria di Marconi mi sembra era 165 kHz quando ha iniziato a trasmettere, perché c'era un'antenna, c'era la fotografia dell'antenna di 350 metri di bracci aveva con l'antenna. Sì, provo a mandarti questa qua se la ricevi, non sono sicuro dei collegamenti, aspetta che passo la potenza per sicurezza, diamo le 2 watt, vediamo se la senti o cosa succede. Vado per qua. Questo l'ho sentito anche io. E l'altro le voci cosa dicono? Questa è più su Gianfranco. No, questa è più giù, è a 175.00. ricevitore professionale. E a 207 non senti niente? Ma, rumoracci. Ah, cioè, voglio tu la curiosità, 177 hai detto? In AM 175, una broadcasting. Santiago 3 a 172,50 l'altro ricevendo, vabbè, non hai detto che sia centrato? No, qua è 9, però ci sono 80 metri antenna. No, no, io sono in verticale, naturalmente, non è il segnale, l'antenna adatta per ricevere. Vai Natale. C'avevo l'altro apparato acceso e mi faceva innesco. Ieri notte, Gianfra. Che è successo ieri notte? Ieri notte ho fatto il primo collegamento satellitare in UHF, scusa, in VHF. Vabbè, va bene. Allora, io non mi sono sentito, però mi ha sentito perché ho aperto, sono riuscito ad aprirlo per qualche secondo. Adesso stanotte alle 23.32, aspetta che è, alle 23.33 c'è di nuovo il passaggio di questo, c'è un'orbita proprio sulla testa nostra, 89 gradi passa. E infatti ho detto, Marco, dovresti farlo per forza, ieri era 46 gradi, per cui non era in condizioni ottimali. Oggi è proprio, passa sopra di noi, esattamente verticale, la nostra verticale. Devo farlo per forza, mi ha detto Marco, che se non lo prendi con quello buttaci tutto, perché sono riuscito a farlo ieri, è molto difficile perché dura 10 minuti il passaggio, e Marco ha parlato bene con un rumeno, anche se poi questo ha parlato un paio di volte e non aveva tempo di parlare gli altri, però è stata la prima volta che ho fatto qualcosa di, diciamo, di diverso da quello che normalmente si fa. Sì, io ho ascoltato tante volte la stazione spaziale. Ma mi piacciono più quelle le cose professionali, capito? Mi adesso sto sintonizzando con Mario Fondoscala, che è a 489, e ti dico chi è anche, via! Sarà il solito, lo segnale è molto bello. Sta andando il meteo. No, questo era Santiago 3, a me era molto basso come segnale. Marco, vabbè, c'è un'antenna migliore. E questo satellite AO 91F1B, trasmette a 145 960 da un link e l'uplink a 435-250 col tono a 67 Hz. Sì, lo so, qualche volta l'ascolto andrà anche, ma mi piacciono più quelli a 137, che sono, per me sono più interessanti per motivi tipici degli SWQL, così. Super basso, violenta forza 11, bomba d'aria forza 11, mi fa sempre bel tempo. Ma dove? Non lo so. Shetland, sarà in Inghilterra, Mare del Nord, forse. Ancora non mi ha dato l'indicativo. Vai a tagliare. Capa. Io non ho niente da dire su questi argomenti. No, vabbè, io sto imparando, io sei presente la prima volta, Marco è un professionista, lui lo fa, è grande appassionato dei satelliti, ha fatto tante cose. Io satelliti TV sono appassionato, di lì posso dire la mia, però di fare cose, collegamenti così in radio, in radiotrasmettitore, mai, non neanche a pensarci, infatti. Mi ha detto Marco, come fare? Devi fare certi tipi di operazioni, eccetera, eccetera. Col TS2000 e mi ha detto che la radio che va più che bene per fare quel lavoro lì, solamente devi stare molto molto attento a lavorare con le cuffie perché passa un attimino, infatti l'ho beccato di sfuggita, anche se il passaggio dura 11 minuti, il picco l'ho avuto, sarà durato un minuto, due massimo, tipo la ISS quando passa qua, vedi un attimino grande e poi piano piano scompare. Lo so, perché deve avere l'affare per perseguitarlo, come cioè Antonio con quella radio, lui piano piano lo seguiva il satellite, capito? Se no spariva subito. Cioè, pensate, quello che ho fatto io è la cosa più semplice possibile. Quando vedi gli altri lavori, quando fa quegli altri collegamenti su quel satellite catariota, che lì deve avere parabola con convertitori termostatati, scoso di riferimento all'orologio atomico, se no se sgarri di una frazione di secondo non riesci a fare niente. E Marco ci ha fatto l'antenna, quella In ricezione va bene, lo può fare, non, qualcuno lo può fare, diciamo, non è difficilissimo, ma trasmettere è molto molto difficile, cioè è molto stretto il fascio, eccetera, eccetera. Ha fatto questa antenna elica, diciamo, l'avevo già visto fare quel lavoro lì, però dal vero non l'avevo mai visto. E l'abbiamo fatta con Antonio l'antenna, e ha collegato la stazione spaziale, ti stavo dicendo l'altra volta. Sì, sì. Ok, Zafra, e tu cosa colleghi? No, in questo periodo sono interessato soprattutto onde lunghe, onde e onde, diciamo, particolari di test, in particolari. E niente, le antenne ce l'ho, anche se sono molto direttive, visto, che sono due da 80 metri, fortunatamente non dico che sono una croce, ma quasi, quindi riesco a gestire bene il traffico, vabbè, c'è anche quella verticale, per acca, ce ne ho 3-4, anche un po' ricordo. Lo senti questo dovrebbe essere una frazione di tempo. Questa qua serve per gli orologi a muro, Sì, quegli orologi radiocontrollati, sì, sì, dov'è? A che frequenza è? Vediamo un po'. Intanto dico subito perché mi hanno spostato, aspetta. Perché c'è quello di Francoforte, non voglio dire una fesseria, ma mi sembra sia a 148 kHz, o sbaglio, confermi? Guarda, questa è a 77 kHz, però sono in USB, probabilmente la dovresti mettere in CV. In CV a manna stretta. 77 kHz? Sì. Se ne accorgi perché fa questo rumore. Vediamo se me lo fa mandare di nuovo. Ci provo. Non so se l'hai sentito. Sì, l'ho sentito. Adesso ci provo, se per caso riesco a agganciarlo. Ne dubito, ma provo. Tecnicamente te lo potrei far ascoltare perfetto, perché c'ho il filtro largo, proprio per non creare complicazioni, qualcosa. Se no lo potrei mettere stretto, tu direi proprio il rumore di fondo, per renderlo più intelligibile. Però, quando sono nell'esplorazione, preferisco avere un coso più... C'è uno spettro talmente pieno che non capisco neanche quali siano le stazioni e quali siano le altre cose. Natalino, dici qualcosa. Natalino si è addormentato. Gianfra, mi ero spostato, era il QTH piccolino. E cosa hai ricevuto, qualcosa? Veramente ho mandato. Comunque fuori non c'è un tempo ancora bello, noi oggi stiamo guardando quello dello Ionio, vediamo chi è la stazione che lo sta mettendo. Ora sono a 5.17 e tu le puoi ricevere lo stesso, con quel sistema. Ecco, finalmente male non mi ha indicativo, la mazza che ve ne scende. A 77, spiccio 77,20, sentivo proprio sul fondo però. Non c'è antenna, cosa aspetti? No, io per quelle lì volevo farmi una circolare, in modo da togliere un bel po' di coso di QRM, però è anche vero che poi c'è una frequenza molto corta, no? Poi trovare il condensatore adatto è un casino, anche remotizzarlo, insomma è una cosa un bel faticosa da fare. Non è semplice, perché quello devi discriminare tutti i disturbi di terra, perché lì c'è anche campo magnetico terrestre, un sacco di cose, è una cosa molto molto complicata da fare. E poi alla fine dice cosa devo ascoltare? Poche stazioni, però se non è cacciatore, è cacciatore, no? Le prede le deve cacciare. sommergibili, magari ti ascolto. Quelli sono in basso, 40, 40, 42. Ma poi anche se c'è un apparecchio HF, secondo me ti genera con tutto quello che c'è dentro l'apparecchio, basta un coso, una lampadina, ti entra pure la lampadina. Questi digitali, ma la so, già riescono a discriminare, sono merava. Chi siete voi? Aspetta che sto ascoltando dalla roba. Non ce l'hai tu, Natalia, un trasmettitore di sommergibile lì da qualche parte? No. Così ascoltiamo anche i sottomarini quando devono attaccarci. Tanto quelli fanno tutto in digitale, non ti preoccupare. Vabbè, ma non è mai decapitato qualcuno a Platamona di quelli in emersione, lui nuotando si è avvicinato di lì, cacchè nella bigliata, è entrato dentro la sala comando, sala radio. Divertente sarebbe stato dove c'è caduto quell'aereo F-35 inglese, e dire chissà cosa c'era di operazioni di soccorso. Dice, merito degli italiani e degli americani che l'hanno recuperato, perché avevano paura che arrivassero i russi e i cinesi, perché c'erano sottomarini, un paio di sottomarini russi nel Mediterraneo, allora hanno fatto subito disturbi, contro disturbi per cercare di non farglielo rilevare. Hai visto il video, Natalino o Gianfranco, come è caduto con l'aereo? Ma quale registrato di cosa sta parlando? L'F-35 che è caduto dalla Queen Elizabeth nella rampa di decollo, gli ha assorbito un telone di cose, sono dimenticati il telone, l'aereo non è riuscito a decollare e c'è caduto dritto dritto in mare. Il pilota si è buttato prima di toccare l'acqua. E iettato? Cosa Giulino? Cosa Giulino iettabile si è buttato? Ma una cosa di pochissimi secondi, tu devi vedere in un attimo, però deve essere molto profondo il mare. E ci hanno messo una settimana a recuperarlo. Ma questo meccanico pilota imbranato? No, il tipo, quelli che stanno sulla piattaforma di lancio, sulla pista di lancio, non ha tolto la copertura del motore e si è dimenticato di chiuderla, per cui l'ha sfilato la turbina e il motore non è partito, e l'ha lanciato solo a catapulta e non è riuscito a partire l'aereo. Un errore che può capitare, no? Un paio di miliardi di valore d'aereo. Penso che qualche problema. Allora, poi l'inglese, la marina inglese sta facendo le cantonate in questi ultimi anni scandalose. Quello che si è portato il comandante con l'equipaggio, tutti ubriachi in Canada, un imbarazzo hanno creato. Poi chi c'era? Un altro che l'avevano trovato mentre doveva essere di guardia con una donna facendo non so che cosa. O meglio, non immagino, cioè degli scandali, poi li hanno portati fuori ovviamente, sommergibili nucleari, quindi la gente dovrebbe essere proprio al top del top, invece è una figura del merda, come si può dire. Vabbè, la figura di merda più grande l'abbiamo fatta noi con Scrittino, quella sì che è una figura di merda mondiale. No, quella è una figura di un singolo capitano. Rinnegato da tutti, adesso anche in carcere, se non ricordo male, e non c'entrava niente. Qua stiamo parlando di navi e di sottomarini che trasportavano dei nucleari, quindi insomma non è cosa di tutti i giorni, ecco. Che ti ubriachi, te ne freghi, è sommergibile quasi da solo perché tutto il equipaggio è fuori, cioè è una cosa inimmaginabile. Infatti li hanno tutti radiati, oltre che processati naturalmente. Poi gli inglesi con l'arco ci vanno d'accordo, come i russi si toccano la mano. E quel tipo che poi ha messo il video era nella cabina di comando del comandante col telefonino di nascosto, ma neanche così stupido, se l'hanno subito denunciato, arrestato alla corte marziale, perché ha pubblicato il video e l'ha mandato su internet. Sputtanamento da niente, ma non si crede, anche gli americani già stanno bene, no? Professionali, tutto quello che vuoi, ma ogni tanto ne escono e dicono, ops, abbiamo colpito una scuola. Sì, fossero solo quelle, poi sono quelle che sappiamo noi. Per dire, noi gli italiani hanno denunciato tutti in quella scuola sottufficiali, non so se era della Marina o di cosa era, che si sono messi a ballare, non li hai visti, ma una cosa goliardica, niente di tutti denunciati a coso disciplinare che hanno messo, perché c'era il tenente di di coso, di istruttore, e si sono messi con gli allievi a ballare quella canzone che si usa, che tutti quanti l'hanno ballata, diciamo, un ritmo così, e si sono messi uno con la tromba a farlo e loro l'hanno ballata, tutti denunciati alla corte marziale. Te credo. A decimo anno nel tavolino facevano la piramide di lattine di birra. Figurati un po'. E non parliamo di furti, a me mi ha raccontato un amico mio delle cose da, parliamo tanti anni fa, stiamo parlando, questo c'ha 56 anni, era militare, fa i Torino 38 anni, dai, 38, 37 anni, mi ha raccontato di cosa rubavano i marescialli, era una cosa, ma cosa di prosciutto, frutta, caricate a uno tirare pizzicato, ma proprio pizzicato di brutto. E quelli che avevano in gestione lo spaccio, che rubavano i marescialli, oltre allo stipendio si beccava. L'incasso dello spaccio e più si rubavano quanto c'era. Ah, c'era un tipo, io ero un ragazzino, qua su c'era il coso dei carburanti, quello macchina sua non ne ha mai messo di benzina, mai mai, tutta la famiglia, la moglie, lui e chi per lui, tutti andavano a fare il rifornimento con i mezzi dal carburante del coso, dell'esercito. Comunque, guarda, sono, perlomeno adesso sono casi isolati, perché se trovano, cioè sbattono fuori in 448. Sono figurati uno che conoscevo, che è diventato, era generale, credo, però generale in un ambito un po' strano, che non si può dire. Era nell'esercito, però prima aveva fatto l'Accademia Navale di Livorno, e solo perché non aveva visto un ufficiale e fatto il saluto perché era distratto, l'hanno preso e sbattuto pure all'istante. Ne avevo voglia di giustificarsi, perché è una disciplina fuori di testa veramente. Sì, ma adesso i furti, io mi ricordo, c'erano gli amici miei, quelli che erano qua alla Gonzaga vicino, che poi sabato sera uscivano, ne uscivano con i cordiali a scatole, cordiali, cioccolati, le gallette, e andavano e pigliavano di tutto, zaini di roba, poi non parliamo di attrezzatura, poi c'è stato, non lo so, qualche soffiata, l'hanno tutti bloccati e non è uscito più uno spillo. Ma poi ci sono certe cose, ma ne vale la pena per bruciarsi una carriera, non ci prendo di no, ma questi vanno a finire poi tutti o nelle forze dell'ordine o in incarichi nello Stato e così via. Ma per un cordiale, per una scatola di gallette, ma ne vale la pena poi rovinarsi la vita, perché poi sei proprio bannato anche da qualsiasi servizio nello Stato e c'è un pregazzizio, perché ti bollano, capito? C'ha la croce dietro. Sì, ma vabbè, questi erano di leva, ragazzi di leva, ragazzutti, dai, non volevano l'ora di andarsene, però hanno rischiato che se ti beccano, sai che ti fai qualche mese di carcere, se non dire, non dico un anno, ma qualche mese te lo fai. Vai, Natalia. Infatti, purtroppo già succedevano queste cose. C'era mio fratello che era alla base di Cimomannu, e succedevano anche lì, ma già li hanno trovati. E quello del carburante sta vincendo tu, è uscito pure in giornale. Sì, lo conosco bene. Mio cugino mi raccontava, lui era invece a Fertiglia, all'aeronautica, che si veniva a prendersi la pizza con la Jeep. Un giorno dice, gli è capitato, c'era un incidente stradale, i carabinieri a Giumano non hanno retanato. Dice, voi cosa ci fate? No, siamo andati, non so che cosa, li hanno voluti bene, solo li denunciano tutti alla cosa militare. I fogli di marcia li facevo io, e ricontrollavo, figura. Quindi, se io ero a Napoli, c'erano centinaia e centinaia di mezzi, arrivavo, c'era il foglio di marcia, lo dovevi timbrare, registrare, e non si scappava. Infatti ci mettevano a noi, perché eravamo tutti fidati dei napoletani, ovviamente. Ci mettevano il napoletano, guai, ci voleva la cisterna ogni giorno. E poi di lì chissà cosa combinava. Ok, vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare qua su questo canale, avanti, che vuole entrare. Nisba, riprenditela tu, Natalia. Infatti, non gliela affidi ai napoletani la cisterna, chi si vende in la benzina. Non so se vi ricorderete, ricordate di quel film Insommergibile Rosa, ve lo ricordate? Quello che rubava tutto. Era uno specialista, era un aiolo e poi andava nella base, nella, pure i letti, le tavole dei letti ne ha furato. Ah no, come si chiamava quell'attore molto famoso, con gli occhi chiari, inglese? Allora uno era Tony Curtis, che era il ladro, l'altro era Gary Cooper, credo. Non Jamie Stewart, Tony Curtis sì, che faceva con Roger Moore, attenti a quei due quando ero ragazzino, ti ricordi quei film, telefilm, dai? Sì. E Tony Curtis era, la parte sua era troppo tovo, perché poi quando ne hanno fregato il maiale, cazzo, fregati a Guido, che andava, si alzava per dormire, ci metteva gli occhialini, le facce negli occhi per non essere disturbato, e c'era il comandante del sommergibile che era troppo diciamo intelligente, e lui le mazze da baseball, da golf si portava, poi se n'è andato in vacanza nell'isola con questa tipa, di tutto di più mi pareva, però era simpatico quel film. Vabbè, super fantasioso. No, io invece ho letto le storie dei sommergibili di Bertassomo, di quelli lì. Quelli uscivano un paio di mesi e neanche la barba si potevano fare. Arrivavano in condizioni con le pulci, con cose. Quelle cose spaventose, invisibili. Poi l'aria dopo qualche settimana prende una puzza terribile, no? E le brande erano per metà dell'equipaggio, perché praticamente tu facevi il turno e poi ci andava il tuo collega che doveva riposare, e così a rotazione, cioè le brande a rotazione. Sì, lo so, perché il fratello di mia zia, poverino, era molto bombardato, lui era sommergibilista, uno lo raccontava sempre, mia zia, che dice un odore di gasolio, perché erano tutti diesel quei sottomarini sommergibili, è stato bombardato con le bombe di profondità ed è morto, non l'hanno mai ritrovato. Infatti ne hanno ritrovato uno americano da poco tempo, che non aveva notizie, era dato per disperso. Questo sommergibile aveva affondato, credo, due navi mercantili giapponesi a largo, credo, di Manila, di quelle zone lì. E poi però i giapponesi l'avevano avvistato da un aereo e l'avevano centrato in pieno, quindi era stato affondato anche quello. È terribile, terribile. Ma l'altro giorno ho letto, scusa, non è andata lì, che hanno ritrovato dopo 77 anni quegli aerei, ti ricordi quelli che sono passati, che hanno perso l'orientamento sopra il triangolo del Bermuda durante la seconda guerra mondiale, 45, dai, diciamo a cavallo della fine della seconda guerra mondiale, erano quattro aerei, una squadriglia di quattro aerei di quelli caccia americani, e si sono persi, non so cosa cacchio, hanno perso i contatti radio, si sono persi e li hanno dati per dispiace, li hanno trovati da poco, non so se quest'anno o qualche anno fa, dopo 77 anni, perché era finito il carburante, loro non sapevano da che parte stavano andando, alla cieca stavano guidando, e li hanno ritrovati in mezzo in questo deserto, non so dove, a una roba di 800 km da dove li stavano cercando. Figurati, è bella la passata in Azietto, mio cugino che era sommergibilista, quello lì lo sai come si è salvato? Perché è uscito a farsi il panino nel porto, quando è tornato è scoppiato il sommergibile, era scoppiato, capito? E si è salvato, ma mi erano tutti i muschi dei colleghi. Ma durante la guerra o nel dopoguerra? No, cosa guerra? Non ce n'era guerra, no? Erano al porto lì, lui è andato a farsi il panino, è andato. Quando è tornato c'era il sommergibile esploso. È esploso il sommergibile proprio. Dai, qualcuno si stava giocando col siluro e gli è scoppiato dentro. E cosa mi so, coppia a due. Perché quello russo, ti ricordi, Gianfra, quello russo, il Kursk, quello che era successo, dice c'è stata una perdita dal reattore, però poi dice che è successo tutto di più. La storia paradossale di quel film con l'attore Lyon, come si chiama? No, ma Lyon non mi viene, e l'altro è De John Ford, che era il comandante. E lo stesso è capitato lì, il reattore si è surriscaldato e non potevamo più manovrare, e hanno fatto la fine al topo, perché cosa fai? Si apri tutto, guai. Poi non lo so ovviamente come sono, come saranno cavata, perché sommergibile del genere a recuperarlo non scherzo. Comunque sono tutti morti. Ma tu non stai parlando, non stai dicendo caccia ottobre rosso con Sean Connery, non è quello, stai parlando di quel film dove c'è stato un coso dentro, che entravano piano piano dentro la sala di coso e c'era il tipo cui qualcuno è morto con le radiazioni, un altro vomitando è morto subito dopo. Sì, il comandante era, il secondo comando c'era Leon Nelson, un comandatore, e il comandante di tutta la baracca era Harrison Ford. Ma siccome quei sommergibili, come è stato anche accertato poi dopo che è crollato il muro di Berlino, ecco che è stato tutto, i sommergibili erano fatti in maniera mafiosa, proprio pezzi fettosi, cioè questo ti dà il senso di quanto sia animale l'uomo, cioè neanche animale peggio, questo è l'animale migliore dell'uomo. Pur di avere i soldi, pur di fare affari, anche su quei mezzi che sono dei mezzi che potrebbero distruggere il pianeta, si mettono dei componenti così. Adesso hanno tirato fuori un altro sommergibile, che è una cosa mostruosa, lungo, gigantesco. Quando mai questi non capiscono che più grandi le fanno le cose e poi più ritrovabili sono, no? I russi sui sommergibili sono anche meglio degli americani per certi versi, e vari americani a livello tecnologico possono avere qualcosa di meglio, però come dimensioni, potenza propulsiva eccetera eccetera, quelli russi sono allucinanti, sono tra i più grossi di tutti e scendono a una profondità più alta di quelli degli americani. Sì, quello sì, però guardando la tabella degli incidenti non si fa tante punti di domanda. No. Vabbè, quelli più insidiosi solamente invece erano quelli convenzionali, la classe non mi viene il nome, sono fatto anche tanti romanzi, quello che è morto, no è quello che è morto da poco, spettacola. Quello che è morto da poco è Will Smith, lo scrittore, l'altro era Patrick, quello che era un ex soldato della SAD, del reggimento cosiddetto in Inghilterra. E praticamente questo sommergibile era stato venduto ai cinesi, era nato la classe di sommergibili molto silenziosi, anche se è convenzionale, però il pericolo non è tanto che sia nucleare o meno, è quello che non lo vedi e non lo trovi, capito? Ma stai parlando dei russi, classe Acula erano quelli belli grossi? No, questo non era grosso, questo era piccolo ma pericoloso, e non mi viene il nome. E il problema di quei sondaggi era che era molto silenzioso, difficile da trovare, capito? Perché era fortemente silenziato, quindi la traccia che ti dava era estremamente bassa rispetto agli altri, anche a quelli nucleari, ed era quindi un pericolo, perché nucleare o meno, se devi far fuori una porta aerei, se ti avvicini troppo non ti vedono, la porta aerei è fregata, non è che possa fare grandi cose. Sì, no, sono esibili a livello di armi, sottomarino non c'ha uguali, tu puoi mettere tutte le portaerie che vuoi, ma se c'è un sommergibile di ultima generazione, di quelli invisibili o difficilmente identificabili, puoi caricare tutte le armi che puoi, spari, ti inanni e non ti acciappa nessuno, e non sanno neanche da che parte è partito il coso, il missile. E no, infatti l'Italia non ho mai capito come mai non si adegua a mettere sottomarini, perché siamo un po' indietro. Guardati i francesi a vedere se sono indietro. Americani. americani, russi, anche i cinesi adesso si stanno tirando in avanti, però noi siamo molto indietro per il coso sommergibile, abbiamo ancora i vecchi diesel, anche se sono l'evoluzione massima, sono motori elettrici, però siamo molto indietro. Litina, l'americano Ivani, Litina, ecco cos'è il discorso, ci vogliono i soldi. No, no, tira il freno a mano, guarda che noi lo votiamo con i migliori, non è così la storia. Noi praticamente produciamo insieme ai tedeschi i U-Bot, quelli...